Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, il voto europeo di 2 settimane fa ha riaperto un po' in tutta Europa un dibattito su come si stia trasformando la democrazia. In fondo, che democrazia è quella nella quale la maggioranza relativa o in certi casi addirittura la maggioranza assoluta degli elettori non va a votare? E allora vi segnalo su questo tema, sulla trasformazione della democrazia, 2 libri di 2 noti studiosi italiani. Il primo libro ci dice che la democrazia si sta trasformando in un modello ibrido. Questa è la risposta di un noto politologo italiano, Ilvo Diamanti, collaboratore di Repubblica, nel libro omonimo Democrazia ibrida, pubblicata dalla Terza con Repubblica, 130 pagine, 5,90 euro. Nel libro vengono ripresi e riordinati diversi interventi e contributi di Diamanti su questo tema, che parte dalla critica rivolta alla democrazia rappresentativa, criticata perché rappresenterebbe una forma minima di democrazia caratterizzata da un sempre maggiore distacco dell'opinione pubblica dalla politica, un distacco che si misura con gli indici di fiducia e con la tendenza europea alla presidentalizzazione, come la chiama Diamanti. L'autore esamina qui la diffidenza che si manifesta nell'elettorato nei confronti dei sistemi politici, le forme nuove di democrazia della rete o di cosiddetta democrazia della rete, i populismi che si manifestano nella tendenza della politica a trasformarsi in comunicazione, esamina il ruolo dei media e dei nuovi media in particolare, e conclude appunto coniando questo termine di democrazia ibrida perché, dice Diamanti, sta trasformando in profondità i tratti del modello precedente, in particolare della democrazia del pubblico. Una riflessione sul futuro della democrazia che parte da alcuni secoli fa, invece, è quella di uno storico dell'industria, Giuseppe Berta, con il libro Oligarchie, il mondo nelle mani di pochi, pubblicato dal Mulino, 122 pagine, 10 euro. L'avvio appunto è suggestivo, si parte infatti dall'esame della democrazia inglese vista nel periodo di Giorgio III, quindi seconda metà del Settecento, che segnò forse l'apice di un modello democratico a parole, ma sostanzialmente oligarchico, in cui poche famiglie e pochi esponenti dell'establishment decidevano tutto. Un sistema che finì per premiare la mediocrità e l'arrivismo, ma che nonostante tutto riuscì anche a mantenere la tutela di un interesse collettivo. E infatti scrive Berta che si avvertiva sopra gli interessi ristretti sempre l'esistenza di un interesse maggiore della nazione, dell'impero, irriducibile alla difesa spicciola degli affari. E poi nel libro Berta esamina, attraverso i casi di Singapore e della Cina, alcuni modelli politici asiatici, per concludere infine sull'Europa. E su questo adesso gli rivolgiamo alcune domande. Buonasera a Giuseppe Berta. Buonasera. Giuseppe Berta, lei parte nel suo libro dall'esperienza del Parlamento inglese sotto Giorgio III e osserva, a proposito di questo Parlamento, che non sono i grandi ideali e le passioni politiche a muovere i parlamentari, ma una trama continuamente mobile, fitta e composita di interessi, che si disegna attraverso reticoli di patronaggio e meccanismi di scambio in una catena infinita di relazioni che si configurano spesso come transazioni. Ma insomma, qui parla del Parlamento di Giorgio III o dei nostri parlamenti? E infatti mi ha colpito, rileggendo un grande classico che io ho letto negli anni universitari, un libro veramente molto bello, The Structure of Politics, e del Sessio Giorgio III di Louis Nemier, mi sono accorto che in fondo le lamentele che venivano rivolte a quel Parlamento 250 anni fa potrebbero benissimo essere rivolte ai nostri parlamenti. Il personale politico viene sempre accusato di muoversi in base a interessi personali e di essere promosso e valorizzato non per le qualità e le attitudini che possiede, bensì per le relazioni di potere. Le nomine nello Stato, nell'esercito e così via sono legate al favore di politici. E infine la ricchezza è un'ottima carta d'accesso alle istituzioni, tant'è che i cosiddetti nababbi, coloro che stanno facendo grandi fortune in India, vanno in Parlamento per strappare addirittura l'immunità parlamentare. Ecco, questa è una cosa significativa che mi ha colpito. In fondo anche nel Parlamento di Giorgio III si voleva guadagnare un seggio per avere una protezione dalla legge per le malversazioni che si erano compiute. Tutti i mali che noi siamo abituati a denunciare nei nostri parlamenti sono anche tipici di quello. Però ecco, accanto a questo elemento negativo, Nemir ha la capacità di far risaltare le qualità intrinseche. Quali sono le qualità di questo Parlamento che posso gente di non altissimo livello e dal profilo morale discutibile. Le qualità sono insite nel fatto che è un sistema rappresentativo dove gli interessi della corona vengono bilanciati da quelle della nobiltà e attraverso il rilievo che prendono le province del paese. E poi, ecco, c'è il grande elemento della leadership. C'è la leadership che riscatta la qualità del processo politico e del lavoro parlamentare. Questa è una condizione, secondo Nehmio, sine qua non per il successo non solo di una leadership politica, ma del Parlamento nel suo complesso. Quindi non tutte le oligarchie sono uguali, perché quella lì, bene o male, funzionò. Quella è un'oligarchia eccellente, vista con gli occhi della storia. Se i contemporanei parevano discutibile, perché come ho detto anche lì non rifulgevano i valori morali e anzi c'era allora alla fine del Settecento che io rimpiangeva il Parlamento di 100 anni prima vedendovi all'opera molte più idealità del presente, tuttavia nell'arco storico noi possiamo scoprire che funzionò benissimo e anzi fu il Parlamento che diede il via alla costruzione della potenza prima del mondo e come artefice di un proprio impero. E lei sottolinea infatti nel suo libro che questo processo andò di pari passo con la globalizzazione che già allora si manifestava nelle forme di allora. Oggi la globalizzazione si manifesta nel fatto che nascono nuovi regimi che è difficile definire, come quelli asiatici, in Cina in particolare. Che cosa sta succedendo? Ecco, mi ha molto colpito, tornando all'aspetto che sottolineava lei opportunamente adesso, è molto colpito che i sistemi globali si accompagnano in genere alla costituzione anche di reti oligarchiche, di sistemi oligarchici. È stato così nell'Inghilterra dell'Ottocento, all'epoca del grande impero vittoriano, forse è così un po' anche oggi, perché se si va a leggere l'ascesa delle tigri o dragoni asiatici e poi in seguito della Cina, si vede che il gioco democratico sì, ha avuto un po' di consolidamento in alcuni paesi, ma certamente nel senso di rispecchiare gli istituti della democrazia occidentale. In sostanza, quello che colpisce è che noi siamo stati abituati a pensare il binomio mercato, libertà politica, mercato, democrazia come un binomio progressivamente inscindibile. La grande ascesa dell'Asia invece mette in discussione proprio questo principio. Oggi, secondo me, la Cina sta cercando di trasformarsi una dittatura da un'autocrazia particolare anch'essa in un sistema oligarchico, ma non certo attraverso le procedure della democrazia, attraverso semmai l'allargamento delle procedure della cooptazione. E io devo dire che la mia impressione del mondo è che ciò che noi chiamiamo democrazia in base all'esperienza occidentale è continuamente sfidata dal buon successo economico, almeno fino adesso, di realtà che sono invece o di appunto autocratiche o pilotate da una democrazia autoritaria, come il caso di Singapore, dove le oligarchie predominano. Lei conclude il suo libro parlando dell'Europa, che è addita come un modello di nuova oligarchia sostanzialmente. Sì, nel senso che l'Europa si è mossa anch'essa, secondo me, nella direzione oligarchica quasi inconsapevolmente. Fatto, l'attuazione della moneta unica senza però il contorno delle altre istituzioni che avrebbero dovuto accompagnare la creazione di un sistema monetario integrato ha di fatto trasferito il potere nelle mani di, come si denuncia molto spesso oramai da tutte le parti, nelle mani di una tecnocrazia che risponde a degli obiettivi economici generali ma su cui la sovranità popolare ha poco titolo per essere esercitata. Ecco. Allora, tutto questo, soprattutto aver scisso così radicalmente la dimensione economica dell'integrazione europea da quella dell'integrazione politica, ha creato effettivamente una tendenza al consolidamento di circuiti oligarchici. Quindi i risultati non l'hanno poi troppo sorpresa? No, non sono sorpreso, ma poi aggiungo un'altra cosa. Io non credo che il potere sostanziale di queste oligarchie sia sfidato dai movimenti correnti populisti antisistema che sono emerse molto alla ribalta, molto fragorosamente, diciamo così, in queste ultime elezioni. La mia impressione è che semmai di fronte a una protesta che non sa bene dove e verso che cosa indirizzarsi, la reazione delle oligarchie sarà di consolidare la propria presa più che andare nel senso contrario. Voglio dire, o c'è un cambiamento nel senso della partecipazione alla costruzione europea, ma attraverso il processo politico tradizionale, oppure il legito paradossale della protesta populista può essere di segno esattamente contrario a quello che si richiede, cioè rafforzare ancor più il controllo delle elite tecnocratiche. Grazie a Giuseppe Berta, autore di Oligarchie. Buona serata. Grazie ancora, buonasera. Me acerco a todos vosotros esta mañana a través de este mensaje para transmitiros con singular emoción un importante. Parlavamo con Berta di Giorgio III, questa è la voce di un altro sovrano a noi contemporaneo, Juan Carlos di Spagna, che lunedì scorso ha deciso di abdicare. Queste appunto che abbiamo ascoltato sono le parole del suo stesso annuncio. E allora vi segnalo un libro che riguarda un grandissimo predecessore di Juan Carlos sul trono di Madrid, cioè Carlo III. Al quale è dedicata la biografia di Giuseppe Caridi, che si intitola appunto Carlo III, un grande re riformatore a Napoli e Spagna, pubblicato da Salerno, 398 pagine, 24 euro. Carlo III ebbe un destino singolare perché fu re prima a Napoli dal 1734 al 1759 e poi appunto diventò re di Spagna, carica che mantenne dal 1759 fino alla morte nel 1788, ed è celebre questo sovrano per essere stato uno dei modelli di quei sovrani riformisti, illuministi, un po' paternalisti, ma efficaci ed efficienti. Una linea di politica che attuò nei suoi due regni, soprattutto nella fase spagnola, che secondo l'autore rappresenta un'evoluzione del suo stile di governo. E qui nel libro vengono ricostruite le due fasi della sua esperienza. Si parla di riforme contrastate a Napoli, dove ebbe come principale collaboratore il toscano Bernardo Tanucci, che Carlo III non mancò poi di consultare anche da Madrid. A 44 anni Carlo III dunque diventò re di Spagna l'autore ci dà del sovrano un ritratto anche fisico, psicologico. Ci viene detto che era alto 1,60 m, che preferiva a Madrid vivere lontano dalla capitale, alla larga dalle cerimonie e dagli impegni ufficiali, amava moltissimo la caccia. Mi pare anche come il sovrano che ha appena abdicato, amava moltissimo i vestiti usati e teneva molto alla pulizia, ma soprattutto era un sovrano convinto di dover cambiare le cose. Per questo si affidò a Madrid al conte di Floridablanca. E grazie a questa collaborazione il governo, per così dire, di Carlo III promosse le manifatture e le scienze, costruì infrastrutture per tutta la Spagna, liberalizzò il commercio con le colonie, fondò il Banco San Carlo, diede vita a quelli che potremmo chiamare alcuni primi istituti di welfare e avviò anche delle politiche di integrazione dei vagabondi e dei gitani. Insomma, conclude il libro, Carlo III viene giustamente considerato il migliore sovrano della dinastia borbonica ispanica. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Put your flags up in the sky, questa è una musica che sentiremo molto nelle prossime settimane perché è l'inno dei mondiali di calcio che iniziano il 12 giugno a San Paolo del Brasile. E allora vi segnalo un libro che prende le mosse proprio dallo stadio Pacaembu, dove si apriranno i mondiali. E in quello stadio si svolse una partita molto importante un giorno fatidico, il 4 dicembre del 2011, quando scompare uno dei leggendari campioni del calcio brasiliano, cioè Socrates. E a lui è dedicato un libro che si intitola Un giorno triste così felice, Socrates, viaggio nella vita di un rivoluzionario, di cui è autore Lorenzo Iervolino, 348 pagine, 17 euro, pubblicato dalla casa editrice 66th and Second. Sócrates fu un personaggio calcistico amatissimo, fu capitano della nazionale brasiliana, un grandissimo campione, medico come studi, politicamente assai impegnato e visse in un periodo buio del Brasile, cominciò a operare sotto la dittatura militare. Quando i dirigenti del Botafogo gli proposero di entrare nella squadra, Sócrates rispose con queste parole: voglio diventare un medico e fare la mia parte per un Brasile democratico. Poi Sócrates diventerà un campione originale, imprevedibile, che così sintetizza la propria concezione del calcio con queste parole rielaborate dall'autore del libro. Il nostro football è creatività, è allegria, a volte anche irriverenza, irresponsabilità. Nei nostri passaggi, nei nostri dribbling, c'è l'istinto della danza, l'energia della capoeira, con cui a ogni gesto ammorbidiamo gli spigoli coi quali gli inglesi hanno pensato questo gioco. Il nostro football non è iniziato con la prima partita, piena di regole e di limiti. È iniziato a piedi nudi sulla sabbia, con le catene alle caviglie. È iniziato da un gesto di libertà, da un desiderio di fuga, non di imposizione. Il nostro football è ribelle a ogni ordine, interno ed esterno, agli eccessi di uniformazione, di geometrizzazione, di standardizzazione, ed è ribelle a ogni totalitarismo che rischia di far scomparire la spontaneità dell'individuo. Il nostro football non può sottostare a un metodo scientifico, alla dittatura tattica nella quale il singolo è perno di un ingranaggio perfetto, ma privo di anima. Il nostro football non è figlio della rivoluzione industriale, è figlio della pioggia sulla pelle, di un pallone fatto di stracci e di una spiaggia, di gioventù senza fine. Il nostro football è un insieme di individualità che brillano una di fianco all'altra, ma a ciascuna di luce propria. Con questo non dico che ogni brasiliano sappia giocare così. Anzi, molti giocatori sono stati europeizzati e hanno perso l'orientamento per quel luogo meraviglioso di creatività e bellezza, che è il nostro calcio. Se l'immaginazione andasse al potere, pensava John Lennon, il mondo sarebbe migliore. John Lennon, un grande inglese, l'unico estraneo per cui ho pianto. È esattamente come lui che la penso, dentro e fuori dal campo. La capacità di immaginare è la nostra energia sovversiva. L'impegno politico rimarrà importante nella carriera di Sócrates, ma naturalmente soprattutto il ruolo nella squadra dei Corinthians, interrotto quando è venduto alla Fiorentina, dove si fermò soltanto una stagione. E spiega il libro che scelse Firenze non per i soldi, non per le ambizioni in campo, ma per gli Uffizi, per Dante e per il Duomo. Edizioni in contropiede pubblica due titoli sul calcio. Questa casa editrice è una nuova casa editrice di Riviera del Brenta che dedica la propria attività appunto alla letteratura sportiva, e sono usciti due titoli, come vi dicevo. Carlo Martinelli è l'autore di Campo per destinazione, 60 storie dell'altro calcio, 126 pagine, 13,50 euro, dove troviamo 70 brevi ritratti di personaggi calcistici e non solo, naturalmente colti nel loro rapporto col football. Vi presento da questo libro, per esempio, alcune righe che dimostrano l'interesse, l'attenzione, la passione di un grandissimo scrittore del Novecento. In questo libro si parla tra l'altro anche di Pasolini, che fu anche un discreto calciatore, cioè Albert Camus. Anche un calciatore ha conquistato il Nobel della letteratura. Correva il 1957 e toccò ad Albert Camus, lo scrittore dell'esistenzialismo ma anche di tante battaglie civili, entrare in quel pantheon dei grandi del pensiero e della letteratura da cui non sarebbe mai uscito. Proprio in quel 1957 Albert Camus affidò alle pagine di France Football, appena conquistato il Nobel, un articolo che fece epoca e scalpore. Vi scrisse su per giù: ho capito e imparato subito che la palla non arriva mai da dove te l'aspetti. Mi è servito più tardi, nella vita, soprattutto a Parigi, dove non ci si può fidare di nessuno. Dopo tanti anni, dopo aver visto tante cose, quello che so di più certo sulla moralità e sul rispetto degli uomini, sul dovere e sui diritti, mi viene dallo sport e l'ho imparato nel racing. Lo disse e lo ripeté Albert Camus, più che promettente portiere del Racing Universitaire in quel di Algeri. In certe immagini in bianco e nero ce lo restituiscono, munito di berretto a visiera, a guardia della rete. Preferiva il campo al palcoscenico, il calcio al teatro. L'altro libro della casa editrice Edizioni in Contropiede è quello di Alberto Facchinetti, il romanzo di Giulio Libonatti, 134 pagine, 13,50 euro, dedicato a un grande calciatore italiano di origine, ma argentino di nascita, che nel 25 diventa un asso del Torino e poi di altre squadre. Sull'importanza del calcio in Sud America e nel Brasile vi segnalo tre libri per chi legge l'inglese. Uno è di un uruguaiano che lavora nell'editoria a Londra, si chiama Andreas Campomar, e ha pubblicato Golasso, A History of Latin American Football, è pubblicato da Quercus, 20 sterline, 512 pagine, che presenta una dettagliatissima cronistoria del calcio sudamericano. Poi sul Brasile, in particolare di David Goldblatt, che anch'egli è inglese, Football Nation, A Footballing History of Brazil, 320 pagine, 9 sterline, 99, pubblicato da Penguin. E questo libro studia in particolare il ruolo sociale che il calcio ha nel Brasile. E infine, di un giornalista brasiliano che vive a Londra, Fernando Duarte, vi segnalo Shocking Brazil, Six Games That Shook the World Cup, è pubblicato da Arena Sport, 12 sterline 99, 240 pagine, utile soprattutto per sottolineare le peculiarità, le specialità, le caratteristiche particolari del calcio brasiliano, condite anche di richiami alla violenza e alla corruzione. Sul Brasile in particolare vi segnalo il libro di Angelo Dorsi, che è un docente di storia del pensiero politico, che si chiama Alfabeto Brasileiro, 26 parole per riflettere sulla nostra e l'altrui civiltà, con un fotoreportage di Eloisa Dorsi pubblicato da EDS, 12 euro, 240 pagine. Il docente è affascinato dal Brasile, che definisce il paese degli eccessi, il luogo degli opposti, grande e ricco, povero e desolato, sulla via della crescita, immobile, industriale, rurale, eccetera, eccetera. E cerca di cogliere l'identità di questo grandissimo paese in 26 lemmi, da agua a zumbi. E naturalmente c'è un'incursione alla lettera F nel football, nel quale lo studioso ribadisce la natura particolare del calcio brasiliano, come confermano queste righe. Si chiama gioco, ma sul calcio in Brasile non si scherza affatto. E che a dispetto dei risultati alterni della squadra nazionale, i brasiliani giochino un calcio unico, mi pare non vi siano dubbi. Non mi azzardo a decretare che è il migliore del mondo, ma certo mi si lascia almeno affermare che è il più spettacolare, ricco di immaginazione e inventiva, poetico come un po' tutto di questo popolo. Forse il fatto di essere un esempio di commistione tra genti diverse, indigene, africane ed europee, ha reso particolarmente creativi e, in un certo senso, felici anche nella tragedia dell'oppressione della dittatura o in quella della miseria più nera che tiene in pugno tanti di loro. Il più noto tra gli scrittori del XX secolo, Sergio Buarque de Holanda, collega la simpatica familiarità del brasiliano alla mancanza di un'etica del lavoro. Il calcio non è un lavoro, in effetti, per i brasiliani. È un gioco, è un divertimento, è una festa, è un'opera letteraria, costante. Ma di quale letteratura si tratta? Pasolini aveva scritto che in Europa il calcio, che egli definiva un linguaggio, era prosa. In Sud America era poesia, e specialmente in Brasile. Una lettura illuminante, intuizione geniale, come tante pasoliniane. Inconsueto il tentativo di Marco Dal Corso e di Tobia Dal Corso, un teologo il primo e un figlio liceale il secondo, nel libro Bibbia e Calcio, pubblicato da Claudiana con Emi, 9,50 euro, 88 euro. E questo libro viene pubblicato all'interno di una collana che studia le connessioni con la Bibbia di molte manifestazioni della cultura contemporanea, in questo caso appunto il calcio. L'analisi parte dalla dimensione rituale e liturgica delle partite di calcio, che era stata sottolineata anche da Pasolini. Ma che cosa c'entra la Bibbia? Gli autori spiegano che a partire dalla riflessione biblica la tradizione ebraico-cristiana ha presentato la metafora ludica come via analogica per rappresentare la divinità. Il calcio è fatto anche di gratuità, di libertà, di solidarietà. Molti giocano in modo disinteressato, appunto. E infine, in comune, il calcio e la Bibbia hanno quella che il libro definisce l'estetica della carne, ossia il fatto che il calcio accoglie la dinamica conflittuale della vita, l'incontro scontro tra i corpi dei giocatori che disputano un pallone rende ragione al fatto che nella vita ci possono essere, regolati da norme, spazi legittimi di conflitto. Un romanzo calcistico è quello di Fabio Caressa, telecronista sportivo, che si intitola Scrivilo in cielo, Mondadori, 232 pagine, 17 euro, in cui il calcio conferma la propria capacità di cambiare la vita e di assicurare emozioni imprevedibili, quali quelle che qui vengono evocate. E a questo punto... Il confettino. Due titoli calcistici, naturalmente un ottimo strumento in vista dei mondiali di calcio è Goal, tutto il meglio dei 90 minuti di Clive Gifford, pubblicato da De Agostini, 14,90€, 96 pagine, e invece PM pubblica di Luigi Garlando Super Goal 7, campioni del mondo in Brasile, una nuova avventura delle cipolline ambientata nel clima euforico dei mondiali, 288 pagine, 16,50€. Infine di Stefano Ferrio vi segnalo Fino all'ultimo gol, una squadra, un torneo, la storia del calcio, pubblicato da Feltrinelli, illustrato da Alessandro Baroncani, 190 pagine, 13€, nel quale troviamo la storia di un torneo che diventa l'occasione per spiegare molto della storia e anche delle regole del calcio. E allora diciamo in bocca al lupo agli azzurri e ringraziamo Luca Cremonese, redazione, e Pietro Lacorti in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.